e denari. Allora, eccoci ritrovati. Come promesso parliamo di pensioni per tutta una serie di motivi. Intanto perché la prima parte di Cuore e Denari ha rappresentato un assist perfetto per parlare di questo approfondimento. Guarda un po'. Pensioni sempre più magre in Italia, naturalmente proprio perché siamo più longevi e lottiamo per raggiungere questo obiettivo. Poi naturalmente bisogna anche fare in modo che il tenore di vita dal punto di vista economico sia adeguato a sostenerci. Qua abbiamo un po' tutte le complicazioni legate all'assegno pubblico e la necessità anche di farsi una piccola rendita integrativa. Detto questo, però, oggi parleremo particolarmente di tutto il tema pubblico, perché lunedì prossimo il Sole 24 Ore ospita un evento ormai consolidato e anche molto atteso, Tutto Pensioni. L'edizione 2017 si intitola Welfare, motore dell'economia. Come sempre si coglierà l'occasione per fare il punto sulle molteplici novità che anche nel 2016 hanno riguardato il mondo previdenziale, in particolar modo il mondo della previdenza pubblica, e per tutti coloro che vorranno venire a seguire l'evento ci sarà anche il presidente dell'INPS Tito Boeri. Tra l'altro anche nel cambio di governo avvenuto all'indomani del referendum del 4 dicembre, va ricordato che il pacchetto pensioni precedentemente varato è rimasto confermato, quantomeno così nei termini in cui era stato fissato dalla legge di stabilità 2017, che dobbiamo ricordare ha delineato una serie di novità importanti per i cittadini in tema di flessibilità pensionistica. E allora, se l'anno inizia per qualcuno di voi con una riflessione seria sul proprio futuro pensionistico, intanto raccontatecelo. Vedo già qualche messaggio al 349-238-6666, ma speriamo di avere modo anche di sentire qualcuno di voi all'800-24-0024. Rifacciamo una fotografia delle cose più importanti da ricordare con Andrea Carbone, partner di Progetica, un grande amico di Cuore e Denari, soprattutto un grandissimo esperto di questo tema che è tutt'altro che semplice. Carbone, ben ritrovato. Buongiorno Debra, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. E poi con questo cognome è super certo. Raccomandato. No, però volevo... Anche se non siamo neanche parenti. Neanche parenti, mamma, però ci piacerebbe. Perché Andrea c'è molto simpatico e ci potrebbe anche essere utile adesso in futuro la sua consulenza. Andrea, no, mi piacerebbe in realtà, agganciandoci anche al tema che abbiamo affrontato fino a questo momento, dare qualche numero relativo all'Italia, no? Un paese, diciamo così, longevo, non vecchio. Sì. Però insomma, qual è l'età media degli italiani? Qual è la speranza di vita degli italiani, se dovessimo fare una distinzione fra uomo e donna? E perché la longevità, la speranza di vita è così importante in previdenza? Ma allora, per quanto riguarda i numeri, Istat ogni anno misura la speranza di vita del paese. Per i discorsi che sono stati fatti sulla longevità, spesso si usa l'età speranza di vita a 65 anni, cioè quando si è vicini quasi alla età della pensione. Allora, gli ultimi dati Istat di ottobre dell'anno scorso, e sono relativi al 2015, dicono che un uomo italiano 65enne ha di fronte a sé almeno 19 anni come durata della pensione, 18,7 per la precisione. Le donne, si sa, invece vivono più a lungo e quindi hanno di fronte a sé una speranza di vita di almeno 22 anni, 21,9 per la precisione. Questi sono i numeri. Naturalmente sappiamo che grazie ai progressi della medicina, delle scienze, della qualità della vita, ogni anno questi numeri si allungano. Ad esempio nel 2016 l'Istat aveva misurato un incremento di 4 mesi della speranza di vita nel triennio precedente, quindi sempre numeri in crescita. E perché è importante guardare la speranza di vita? Il primo motivo è perché stiamo parlando di vita, stiamo parlando della nostra vita. 20 anni di vita non sono pochi. Prima si diceva vanno riempiti di ottimismo, partecipazione, imprenditorialità, sogni, aspettative. Da questo punto di vista bisogna fare dei ragionamenti, perché ci vogliono delle risorse economiche, tante, certo, poche o medie. Vanno considerate. Esatto, prima di andare in pensione naturalmente, perché poi l'accantonamento per gestire economicamente questi anni bisogna farli prima. E quindi insomma, più si vive, maggiore l'età di pensionamento, Carbone, più si vive, più piccolo è l'assegno. Quindi qualche volta, quando proviamo anche a ragionare con i nostri ascoltatori del perché devono essere fatte continuamente riforme delle pensioni e poi le loro anche seguenti manutenzioni ordinarie o straordinarie, il tema è questo. Qualche volta abbiamo la sensazione che il governo, lo Stato ci faccia un dispetto, ritorniamo a noi, appunto l'assegno si fa sempre più piccolo, qualche volta un po' perché magari le riforme che si fanno non sono azzeccate e puntuali, ma proprio perché in realtà dobbiamo costruire, cucire una coperta che deve accontentare un numero sempre crescente di persone che vivono più a lungo. Sì, diciamo che lo Stato deve fare un ragionamento di sostenibilità dei conti pubblici, quindi vivere sempre più a lungo come aspettative di vita è una notizia meravigliosa, ma da un punto di vista di conti complessivi, ecco perché, come dicevi, ci sono due conseguenze. Più a lungo si vive, più crescono i requisiti per andare in pensione, cioè la durata della pensione resta la stessa. Se vivo più a lungo, sposto più in là l'asticella. Invece che andare a 67 anni, andremo a 68, 69. E allora, intanto... E poi c'è l'aspetto economico, perché se vivo per più anni, i contributi che ho versato devono bastare per più anni e quindi l'assegno diventa più sottile. Allora, intanto che magari chi è nel pieno della propria stagione lavorativa assume consapevolezza su questi aspetti, andiamo invece a coloro che vorrebbero andare in pensione a breve, che si sono visti sfuggire un po' a questo obiettivo negli ultimi anni, anche per effetto appunto delle riforme che è stato necessario adottare per garantire la sostenibilità dei conti pubblici. Come dicevamo, andiamo ai grossi temi del momento, cominciando carbone sulla con l'APE, quindi non parliamo di insetti, ma parliamo proprio dell'anticipo pensionistico, del quale abbiamo tanto parlato anche in puntate precedenti, quando il governo stava costruendo questo meccanismo che consente ad alcuni cittadini appunto di anticipare fino a 3 anni e 7 mesi la data di pensionamento. Si parte il 1 maggio, giusto? Sì, si parte il 1 maggio, è una forma comunque sperimentale che avrà un termine al 31 dicembre 2018 e che si rivolge a chi? A tutti i lavoratori INPS, quindi dipendenti autonomi e gestione separata, con 3 forme che, prima di entrare nelle differenze, hanno in comune che cosa? Che cos'è l'APE? È un meccanismo che consente di andare in pensione prima grazie a un prestito. Questo prestito viene poi restituito nell'arco di 20 anni attraverso un prelievo dalla pensione che si ottiene a regime. Secondo elemento in comune è un vincolo di età. Non è una sperimentazione per tutti, è una sperimentazione che riguarda soltanto chi avrà o ha almeno 63 anni e in questo modo, a partire dal 1 di maggio, stiamo parlando di chi ha fatto, come dire, il compleanno almeno dal 1 maggio, quindi nati del 1954. Cosa significa? Significa che si può anticipare di al massimo 3 anni e 7 mesi rispetto all'attuale requisito di vecchiaia, che è di 66 anni e 7 mesi. Chi eroga questo? Sì, prima di dire i 3 tipi, chi eroga questo prestito ponte, chiamiamolo così? Il sistema bancario, con meccanismi che devono ancora essere definiti? Esatto, proprio in questi giorni, ma è il sistema bancario che eroga il prestito. In realtà, per il lavoratore, il rapporto sarà sempre ed esclusivamente con l'INPS. Quindi sarà l'INPS a fare da tramite. Cuore e denari. Con Andrea Carbone, partner di Progetica, questa mattina un punto sulle novità pensionistiche, i provvedimenti che stanno entrando in vigore dal 1 gennaio 2017. Si parte con l'APE, sarà uno dei tanti argomenti di cui si discuterà lunedì prossimo al Sole 24 Ore nell'edizione 2017 di Tutto Pensioni, tema di quest'anno, welfare, motore dell'economia. Allora, quante tipologie di anticipo pensionistico conosciamo, Carbone? Ne conosciamo 3 e saranno 3 a partire dal 1 maggio appunto del 2017 di quest'anno. Saranno un APE rivolto a tutti, cosiddetto APE di mercato, che è rivolto a tutti i lavoratori, basta avere 20 anni di contribuzione e un assegno pensionistico, l'assegno anticipato, che non sia inferiore a circa 700 euro. Poi si entra in APE più specifici, c'è un APE aziendale cosiddetto, che è come l'APE di mercato, ma riguarda le situazioni nelle quali aziende e lavoratori trovano un accordo per l'uscita anticipata, quindi c'è un accordo, c'è una contribuzione dell'azienda a favore del lavoratore per questo meccanismo. Quindi poi diciamo che l'autorizzazione non deve darla al sistema previdenziale perché i requisiti ci siano, ma in questo caso deve intervenire l'azienda. C'è comunque una verifica che siano soddisfatti i requisiti base dell'APE per tutti, ma poi si entra nella contrattazione singola tra azienda e lavoratore o collettiva tra azienda e lavoratori. Poi, se non ricordo male, siamo alla social. Esatto, che è stata quella più discussa perché nel tempo si sono aggiunti tanti aspetti, tanti paletti, perché di fatto riguarda solo lavoratori in particolari condizioni, quali ad esempio disoccupazione, disabilità o il fatto di avere familiari con disabilità o ancora aver svolto negli ultimi 6 anni attività gravose. ci sono dei minimi anni di contribuzione, 30, che diventano 36 per i lavoratori che hanno fatto attività gravose, e l'assegno pensionistico non può essere superiore ai 1.500 euro lordi. Certo. Tradotto, il numero di persone interessate è probabilmente più limitato rispetto alle prime versioni del Life Social. Allora, andando in pensione con 3 anni e 7 mesi di anticipo, naturalmente ne subisce tutte le conseguenze l'ammontare dell'assegno pensionistico, no? Carbone, come lo possiamo quantificare? Quali aspetti da questo punto di vista dobbiamo tenere in considerazione? Allora, diciamo che l'APE in generale per tutti coloro che lavorano ha un costo implicito, che è il fatto che se si smette di lavorare prima si versano meno contributi e quindi la pensione sarà inferiore a quella che si avrebbe senza l'interruzione lavorativa. Naturalmente per chi è disoccupato questa componente non c'è. Poi il costo per tutti è quello che si diceva, poiché la banca eroga un prestito per gli anni dell'anticipo, ci sono degli interessi da restituire. E non solo, poiché c'è un prestito, c'è una copertura assicurativa che garantisca chi eroga il prestito, quindi la banca, certo, dal fatto che il lavoratore non sia in grado nell'arco di ripagare questo prestito. Di ripagarlo. Ecco. Allora, questi costi sono diversi a seconda delle tre situazioni. Nell'APE Social i costi sono completamente a carico del governo, dello Stato, e quindi non c'è nessun costo per il lavoratore. Per l'APE aziendale dipende dal fatto che il datore di lavoro contribuisca o meno. Per l'APE di mercato gli sgravi che concede lo Stato sono invece al 50% del costo. Senta Carbone, secondo lei, noi in realtà su questo meccanismo qualche perplessità in diretta le avevamo trasferite anche, a parte in termini generali, anche al ministro del lavoro Poletti, che avevamo intervistato in occasione del Festival Luci sul Lavoro a Montepulciano, e proprio l'avevamo detto se fosse convinto di andare avanti con questa operazione. Detto che naturalmente tutti i lavoratori hanno il diritto di fare quello che vogliono con i contributi che hanno versato nel corso della loro vita lavorativa, ma se lei dovesse indicarci il profilo che dovrebbe approfittare, detto che è una scelta personale ovviamente, ma secondo lei, insomma, cosa c'è che va e non va di un meccanismo di questo tipo? E secondo lei i lavoratori hanno la consapevolezza del fatto? Perché quando si va in pensione c'è tutto l'aspetto emotivo che entra in campo. Non si vede l'ora, magari per un certo tipo di lavoro, naturalmente, di venire via dal mondo professionale, perché non ce la si fa più, perché si hanno altri impegni a casa a cui assolvere. E detto ciò, e quindi magari ecco lì si approfitta della situazione non avendo la piena consapevolezza del fatto che si sottoscrive un prestito che poi non c'è. Certo momento andrà ripagato. Carbone, solleviamo un po', non dico di dubbi nella testa degli ascoltatori, ma magari andiamo un po' ad indicare anche quelle criticità che dovrebbero essere considerate, poi magari la scelta la si fa ugualmente, però ecco tutti quei temi di consapevolezza che vanno trasferiti correttamente ai nostri immediati pensionati, pensionandi. Certo, allora l'APE rispetto a come è nato oggi si configura sempre di più come uno strumento di sostegno, quindi di aiuto, in particolare per chi è in situazioni di difficoltà. Quindi non si discute il fatto che sia uno strumento, l'APE Social ad esempio, di supporto a chi probabilmente non sta lavorando perché è disoccupato o comunque vive delle situazioni particolari che possono essere la disabilità o delle attività particolarmente gravose. In questi casi lo Stato rende non oneroso per il lavoratore l'aderire a questo meccanismo, e quindi diciamo che non è un meccanismo previdenziale, è un meccanismo di assistenza cosiddetto, è un meccanismo assistenziale. Allora in questi casi in effetti c'è un'opportunità: se io oggi sono a casa, non sto lavorando, ma non ho ancora l'età per accedere alla pensione, ecco che questo strumento di flessibilità può offrire un valido aiuto. Come si può discorso sì, diverso, no, Deborah, è quello sì. Che dicevi per invece chi lavora. Perché in questo caso c'è un costo che non è trascurabile, e allora quell'ansia emotiva che dicevi rispetto a voler andare in pensione però deve passare da un'analisi di qual è il costo immediato e nell'arco dei 20 anni di questa scelta. Certo, senta, a parte progetica Andrea, insomma quali sono quei soggetti che possiamo individuare adesso come interlocutori per poterci dare tutte le informazioni adeguate su questa novità importante? Sono i centri di assistenza fiscale, non lo so, gli sportelli INPS sono pronti a dare tutte le informazioni giuste, anche a fare una simulazione degli effetti dell'APE, insomma dove andiamo a parare? Allora, le fonti sono tutti coloro che hanno competenze previdenziali, quindi patronati, sportelli, l'INPS, sindacati, educatori finanziari, educatori previdenziali, tutti coloro che se ne occupano. Il fatto è che al momento la legge di bilancio del 2017 era stata approvata, come dire, in gran fretta dopo l'esito del referendum, e quindi proprio in questi giorni si stanno aspettando i decreti, da un lato attuativi da parte del governo, e poi le circolari INPS attuative che daranno i dettagli sul meccanismo. A quel punto sarà possibile effettivamente, con il tasso di interesse bancario, con il costo dell'assicurazione, fare un conto preciso. Diciamo che al momento il consiglio che possiamo dare è quello di A, verificare se si hanno i requisiti di base per accedere all'anticipo pensionistico, all'APE, e poi di cominciare a riflettere sulla propria situazione, meglio lavorare, meglio proseguire invece l'attività lavorativa, e appena avremo i numeri, diciamo, definitivi, fare le simulazioni in modo da ragionare con le voci in euro di fronte agli occhi. Ho la sensazione che torneremo presto su questo argomento. Peraltro, a proposito di argomenti, in realtà con Andrea ne avevamo messi in pista tanti questa mattina, volevamo fare una fotografia rapida di tutte le novità in arrivo, ma poi ci siamo concentrati sull'APE perché necessita di tutti gli approfondimenti. Per cui magari in un'altra puntata parleremo della rendita integrativa temporanea anticipata, la Rita parleremo delle nuove regole per il cumulo gratuito dei contributi per appunto i lavoratori e tanto altro. Non riesco a sentire le domande degli ascoltatori. Gianni dalla provincia di Modena voleva chiederci se ci fossero delle novità per i lavoratori precoci. Ce la facciamo in 30 secondi, Carbone? La risposta è sì, nel senso che anche per i precoci è stato innanzitutto tolto la penalizzazione che dal 2018 sarebbe scattata per coloro che andavano in pensione prima dei 62 anni. 10 secondi. E poi ci sono delle altre categorie di lavoratori agevolati che approfondiremo in una prossima puntata. Bravissimo, però chiedo agli ascoltatori di scriverci. cuoredenari@radio24.it. Andrea sempre stradisponibile con noi. Noi intanto torniamo lunedì. Buon weekend a tutti.